avanti, avanti. Ah, meno male, io pensavo che eri già in Ucraina. Come dice, come dice? Pensavo che eri già in Ucraina. Ero addormentato, mi sono alzato adesso adesso. Perché sono crollato. Ore lunghe sta facendo, no? Le ore piccole, ma la edizione. Io pensavo che stamattina eri strabaccato in spiaggia, cioè il mare calmissimo. Ma tu non c'eri però. Ero impegnato. E non ci sono potuto scendere perché dovevo portare il cane io e dovevo fare altra cosa, quindi non ci sono potuto scendere. Ma domani vado, cani e tutto. Tanto parte domani mattina presto mia moglie. Chiara, chiara. Se lo porti al mare tienilo legato. Perché bisogna sempre un bel cane, capito? Se li tengono asciutti giustamente per correre in spiaggia. E allora domani porta via Glock pure, così almeno se capita così glielo sparo davanti. Non ha fatto un cazzo io qua. Ehi vabbè, ce ne sono tanti, capito, come sono visto. Giustamente uno si fa organi in spiaggia, noi rubare a battimento la guinzaglia, tanto pare rubare la ghiaccina allora. E se non si sfogano in mare. La mia quando arrivo, la sai come ti... Cazzo, come ti venivo con un insaglio, cazzo, correndo a mille, andando e tu rendi, pare che ti bisogna a che cosa. Hai tanto di bianco, e se ti cudineva? Il mio sta sempre col guinzaglio il cane, e pretendo che anche gli altri lo tengano al guinzaglio, a che se non gli dico cose, diciamo, li chiamo subito alle guardie, ecco Zuffile li chiamo, li posso fare verbale immediatamente. Vabbè Natali, non è che se uno no, io se non ci sono altri cani prima di togliere il guinzaglio guardo se ci sono altri cani, capito? Ma se non ce ne sono lo sciolgo, se poi vado a riguardare altri cani lo leggo, capito? E così si fa le corse. Aspetta che mi stanno telefonando. No, io non gliele tolgo per niente, invece. Siate con me, Gruga. Giulio, ci sei? Giulio. Natali. Ui, che era al telefono. Ah, sei a KK. Era al telefono fisso, ero, che mi hanno chiamato. Mi ha chiamato mia zia. Solo che mia moglie non c'è, che è uscita. E quindi... tira a campà. Ma la polizia ha inteso me. La sirena. Sì. Caspita, lì ne passano parecchie, tra polizia e ambulanze. Ma chi sa di passare un corso, che la gente è lontana, è a Sudaddu. Così l'hanno chiamata di urgenza a Chivi. A che risa sarà successa? Sì, e se no lì dal mercato vecchio. Su Maria aveva la gentaglia che si è fatta lì. Al mercato vecchio. Sì, quella via lì. Ragazzini che più maraducati non venne. Via Rosello stai dicendo. Allora. Che vuoi che ti dica? Oggi non l'ho manco telefonato a Bruno perché un paio di giorni, un po' di giorni che non scende a Plattamona. Perché dice che non si sentiva bene, ieri era dal medico per esempio, e quindi è un po' così di chi non vi parla, ma io parlo la sola domani, da voi mi nasce allora che devo cucinare, a chi mia moglie non va che faccio domani. Domani sera parte? No, domani mattina alle 5 parte, cioè alle 5 e mezzo. Se ne bisogna 5 però minimo, perché alle 6 deve essere all'aeroporto. Perché fai rientrando e fermandoti direttamente giù? No, non ci vado ad accompagnarla io, già vengono gli amici di Giorgio a pigliarla e va con loro Alghero. Dovevo andare io a accompagnarla, ma si sono fersi quelli, quindi mi hanno ripagnato l'altra taccia. Beh, un grido a chi sura da buio. A chi arrivi deve essere all'aeroporto, deve essere partire a rigetti l'aereo a beso mio. Se arrivino si inchivi per finire l'aereo. Sì, vabbè. Deve essere sempre prima i chili. Chi la pagava? Meglio. E Marco, non senti su, quel Marcolino Condo? No, non ho sentito, forse è troppo conto. Io pure ho acceso adesso che me ne sto alzando praticamente. Cazzo, non c'è che ci dormi davvero dopo pranzo. Sì, il clima magari anche che ti attira. Ehi, già la notte dormo poco, no? Cavolo. E allora praticamente sono crollato all'ora di pranzo, un paio d'ore già me le ho fatte di sonno. Ma si sente un ventilatore o una ventola che Natali, cos'è un ventilatore? Non c'ho niente acceso. Sì. Non è un ventilatore, poi c'ho anche il microfono, no, già è a metà, invece lo mettiamo a 3, così, ecco. Me ne sono dimenticato, ce l'avevo a metà. Infatti si sente quasi niente adesso. Sentiva come una ventola, una ventolina. E sarà chissà di alimentatori, sarà. Ah, di quelle fisse la ventola perché? No, non si sentiva mai. O è sporca quella ventola, vuole pulita. E quell'alimentatore di switching di quelli grandi, che hanno gli strumenti. Vabbè, ma se è acceso da poco non dovrebbe accendersi la ventola, se è acceso da poco la radio. Infatti io non la sento perché è silenziosissima, poi è lontano l'alimentatore, è sopra l'ultimo piano, bisogna 3, 1, 2, 3 al terzo piano, bisogna 3 mesoli, bisogna, ed è 2 al terzo piano l'alimentatore, ma non avevo vicino. È meglio sempre lontano allora. Oh signore. Ma che vuoi che te dica? Ma non se la sento, lo sbattito, il battito delle ali dei canarini, ma se no è gente esuissi. No, adesso si sente ma è poca roba, è come un avvento, sempre capito, ma è leggera adesso. Io ho capito. Però paghiscio. Già giù butto lo squelcio, paghiscio. E Giulio, l'ha sentito, non si è sentito? Sì, ho acceso appena adesso, io non l'ho sentito, no. Ho acceso appena adesso, quando mi hai sentito tu. Con la sentita, è in ascolto, maledizione. E quel Giulio è sentita, è forte, è diventato. E Marcolino è in ascolto. Quello è un delinquente. Per quello adesso non la faccio entrare l'Ucraina a casa sua. Brecco! E lo mi dà? Aia, chi è questo prepotente? Eia, c'avevo la frequenza sbagliata. Adesso è giusta. Ti ho sentito parlando. Ciao! Ben sentito Natalino! E beh Luca, com'è? Tutto a posto, hai visto? Eri in una frequenza sbagliata. No, era 27.00.75. Invece adesso ho messo 27.00.75.0. Sì, alla rovescia ce l'avevi. Adesso è giusta, adesso la sento bello pimpante. Perché ce l'avevo un bel tempo fermo questo, capito? L'avevo posizionato qua, però era sempre spento. Io ho capito, cata, e poi così intendi medio prepotente, Luca, ti immagineggi? Luca! Perché è un gufo, Però io a Luca sono un po' più basso, ti sento, a Natalino lo sento più squillante. Ah, boh, Natalino me l'hanno regolato il microfono. Ma ti pare, è logico che mi l'hai regolato più basso di mio, se non intendi più bene a Edu, capitolai. Ah, così, Tu già mi arrivi bello per tantello, là, bello forte. Anche lui già lo sento bene, però rimane un po' più basso, come più chiusa. Perché parla lui a voce bassa. Grazie, va bene così, graziati, va bene. Così va bene, ci sento meglio. E di da Valera non si intende, se mi porto di 3 metri non ti intendo. Che a te, allora mi ha fregato Natalino. No, cazzo si mi ha fregato. Sei tu chi rubò nei passo. Certo, mi avete fatto abbassare il macchine a 4, era a 7. No, poco sì, se no anda male la radio, adesso è perfetta, Lu. Ah, è proprio perfetta. Ehi, siamo già finiti ad aumentare. Oh. E io la potenza ce l'ho chiusa, appena un quarto e posso alzare molto io, ma lo lascio così che va bene. E già si scende bene, grazie a Pittina. Io sto scendendo con 2 watt, è tutto chiuso, 2 watt. Questo praticamente è uguale, da. È nuovo, avevo comprato e poi non lo stavo più operando perché trovavo difficoltà a ricordarmi le bande, capito? Devo leggere sempre, papà e da, se mi voglio spostare, capito, su un'altra banda. Devo per forza, non me le ricordo, devo guardare la cartellina che c'ho. E perché non te lo segna il canale? A me mi segna la frequenza al canale questo, che apparecchio è quello che c'hai tu? Un CT3 7009, ma è nuovo, cazzo, l'avrà già trattato, se no, una decina di volte, Sto uscendo veramente bene, un CRT 7009, ho capito, è bellissimo quell'apparecchio, tutto digitale. Il mio mi segna la frequenza e il canale mi segna. Questo già segna tutto, la frequenza sono sulla D io. L'altra volta ero sulla C però sentivo male, allora avevo regolato e sono sulla D. Sì, anche la mia è sulla D. Se lo metti sulla C scendi di 40 canali. Vabbè, ma io non ne sabbia la salute, però adesso già si sente meglio, capito? No, già è buona, solo che mi dà fastidio, io se mi devo spostare il canale mi devo leggere papo la tabella, che non mi lamento io tutte le bande, se mi voglio spostare non so sul 5, capito? Devi dare dammi la cartellina, è un casino. Sì. E vabbè, tu tieni la portata di mano, la cartellina, e almeno sai dove sei, capito? Però lascialo sempre sulla banda D, perché sono i primi 40 canali della 27. Ehi, già è bella come radio, c'ha tutto, c'ha. Non ne manca nulla, dalla la detta, tutto anche l'eco, tutto quanto, non ne manca niente. E poi completo, poi mi viene dato un caffettino che si fa attaccare al computer che normalmente ma cosa si via, volendo usarlo anche col computer. E per ampliare le frequenze, anzi se ce l'hai quel caffettino me lo fai vedere che forse serve per il mio, serve, che si attacca dietro. C'è l'altro tipo telefonino, così è, l'attacco. Non me lo ricordo, un pezzo di filo e cosa sarà, 20 centimetri, forse neanche, non me ne ammetto, perché se la scatola ce l'avevo conservata, avevo lasciato solo fuori il baracchino, capito, per non avere tutte e mezzo ai piedi qua. Perché lo sgabuccino è piccolo, ce l'ho nello sgabuccino. Ho capito, anda bene meglio. A me non mi hanno dato di cavo, lo vedi, per il computer. Mi hai mandato giù l'apparecchio e buh. No, ma guarda, l'avevo pagato a parte, l'avevo richiesto io, quel capo. Perché me l'aveva detto quello, poi alla Cadoviglia invece poi gliel'ho chiesto. Me l'ha fatto pagare, noi mi l'ha dato imparare a radio, capito? Ah, ok, e forse anche per questa vuole comprato a parte, allora, capito. Mi sembra che me l'aveva fatto pagare un 30 euro con la spedizione. Da la zona di Napoli, non mi metto la paesina, in un negozio. Mi assento 5 minuti che vado in ufficio, riprendi lui. Meglio, sì, probabilmente eri in banda C allora, 27005, sicuramente, anche 27075 non c'è, che eri sicuramente in banda C. Beh, Natalino ne ho uno di cavo, ma non lo so se va bene, già è l'attacco dietro come te. Infatti, no, ma poi Marco ce l'ha il cavo, no, se lo vogliamo fare lo facciamo e si fa da dentro. Quello di Marco è quello che si attacca dentro direttamente nella scheda madre. Non lo so. E beh, cosa, quando gli attacchi il cavo, che cosa li devi fare, perché? Devi avere il programma per riprogrammare l'apparecchio, perché si possono fare bande da 60 invece che da 40 e mi aumenta un bei canali, capito? Bah, cosa aumenta a fare i canali quando sei sempre in hobby tanto? 45 ce l'hai? Sì, infatti non ne ho bisogno, già basta quelli che ha, infatti lo lascio così, questo non lo toccano. Tra l'altro, se riesco a aggiustarlo me lo metto in macchina, la fanguala, lo uso per la macchina. Infatti, in macchina non ne hai allora? Sì, c'ho un Intech di quelli piccolini, ma mi uso il 3009, mi uso, che è omologato, capito? Che se mi trovano magari me lo sequestrano quello lì, perché non lo so se è marcato CE quello che ho in macchina, vuole marcato CE, capito? Allora manco sono sicuro che è tranquillo, Guido. E infatti, chi è che vuole entrare avanti? Ti vuoi un bel gol in macchina, cosa? Quando ci ti devi fare tindina, sta lì, cosa? Cosa sei che vi ha? Sì, pagando la dratto la macchina, me. La scudante da macchi, si occupare da platamono, ogni addanto. Se no, non il dratto, cosa? La sai, per esempio, manca antenna a Giubuccio. Dico appunto, no? Ma Marco, quando ti fai intendere, ma sono stato io, sono di una furba, a te sono pensando. Ma vedono l'antenna, capito? Ma sono stato sedito, baracchino, ma l'antenna uno vedrà e buco. sì, magnetica, capito, come la mia. Dici che c'era lo stereo collegato. Ma chi c'ha antennone? Senti. E prima c'era lo sdoppiatore. Sì, già lo so, esisteva quello del Taggi, mi sembra, che potevi attaccare la radio e il baracchino, tutta uno. Esatto. Io non la piazzo sempre perché se no tocco entrando nel parcheggio, capito? Quindi la devi togliere proprio. Sì, non è sempre che la bomba, che mi dà dei passivi. Mi dà. Un attimo a metterla, la tolgo, ecco, fa un tacco e c'è la bomba e l'attacco. Ehi, ti metti questa in macchina, tappa e vedi come va. Già lo so, quello c'ha pure l'elicottero, come piace a me. allora, questo c'ha anche l'elicottero. L'elicottero c'ha quello. Ah, uno l'ha frusciato, avanti. Chi è? Avanti, capo. Vorrei a vedere che ti sentono con questo. Già lo credo. Sì, rimane sì, sotto casa. Che ha risolto. Vieni a pure un branco, Ghisu, un bel naduio, Ghisu. E poi questo omologato. Ghisu, già lo so. Ah, così è più o meno? Così è più. Ah, metà è adesso. Già va bene. In macchina sempre a manetta l'avrei messo. Attenzione, Graziano, gufo. Aspetta un attimo, già reso subito. Che sta attaccando il lampadario, che devo staccare a pulire la paoletta. Ehi, ehi, c'è quel lampadario in mano da riposo, mi. Questo Graziano, una cosa... Cosa che mi futtia quando era a dieta, oh lui. Perché? Che anni cucinava poco, di chi si mangia buoni, cazzo, di chi si dà al ristorante proprio. Ed io e la dieta non potevo mangiare. Ah, è vero che lui è. E mai tu mi futtia, poi c'ha me lo va via. Adesso stanno aprendo la... Stai uscendo male lui. Attento, Marcolino Condo, a ci sei all'ascolto. Marcolino. Attento, Marcolino Condo, a ci sei. Sei un delinquente. Non c'è nulla da fare, questo Marcolino Condo. Sarà l'ascolto e non vuole e non entrami. Allora, entra quando c'è chi vuole lui, capito? E anche le ore notturne fa quel maiacco, anche le ore notturne. Perché anche maniacco è? Capito, sai? Sì. Allora, tempo brutto ha messo la mano così. Addirittura lunedì pioggia, se non piove me ne scendo a pescare lunedì. Speriamo che non faccia pioggia, che domani devo andare a Platamona Faru, mi porto pure a Curtareddu. No, domani ha messo solo coperto. E male, lunedì ha messo pioggia. Speriamo di no. Sì, pure se è coperto scendo lo stesso, non ha fatto un cacchio. Ah, va su cuva, sono tutta la ghida che non fa lui. Che devo pigliare sole io, che questo Covid mi ha rovinato. Dillo a me, ha rovinato a te, dillo a me. Zitta, zitta, che tutto in mano avvocato. Tutto in mano al legale, così imparano. Infatti, ma di tu vada a farsi dare il modulo che ha firmato e se non glielo danno le dica che sto chiamando io. A che chi se la va, capito? Fazzi una storia, cosa le serve, a cosa non le serve, a che dire a Guppi non ti la danno a te, ti rubano il gompila e buh. Sì, perché quello è come che hai firmato la condanna a morte, così si scaricano tutte le colpe, capito? Ma invece ho sentito, siccome ne sono successe, ne stanno succedendo troppe, capito? E le coincidenze fin tanto su punto, allora stanno iniziando a risarcire, capito? Perché le coincidenze fino a un certo punto. E infatti, bombe di niente, mi avrà educata, non veda luce, ma qui parici un gufidi. Da quando la viene fatto che tu vaccino, le successo isso, a luce. Mi sto intendendo un bel. Sì. Oh, è pure morendo, ne so, giovani. Sì, sì, sì. E secondo te perché stanno pubblicizzando il vaccino contro la varicella? Perché quello che è successo a me è successo a tanta altra gente, capito? Allora, loro, i signori, per prevenire, dizi, fatevi chi non ce l'ha il vaccino della varicella. Hanno preso. La cosa lo so pubblicizzando. Ah, ragazzi, grazie. Perché chi ha il vaccino non è detto che non gli possa succedere niente anche dopo anni, non è detto. E allora, per prevenire, capito, quasi mi sono offendere a cosa. Perché chi è nato prima dell'80 non ne ha vaccino contro la varicella perché non ce n'erano. Dopo l'80 li hanno inseriti quei vaccini lì, capito? Quindi manco io ne ho. È per quello che stanno pubblicizzando, hai visto? Ed è brutto me, perché io l'ho passato solo che ti scimpieggia e ti lascia un segno, hai capito? Ehi, io gli ho fatti tutti e quattro, non mi ha fatto un cazzo. Boh. E mi ha dato grazie, ma non è a tutti che lo fanno, però si può presentare, meglio mi sono morendo di burro, avvero me. Grazie. Non è detto che si presenta qualcosa subito, non si può potrebbe presentare mai, ma si potrebbe presentare, capito? Allora se la bagice che sono sempre ammalato, se no che ci sono affari da respirare, cosa vuoi che ti dica? Boh, la stessa cosa ne è peggiore di me, ci faccio un paura di medicina. Altore dalle 4 faccio vedere alle 4 mesi, altre di bastiglie, per carità. Lo sta facendo a tutti, stanchezza e tutte queste sintomi, capito? La gente scende il gabbo, purtroppo. E tu ne hai 4, e io sono arrivato da un secondo solo, anche dal buon desiderio di un secondo mi ha crepato, capito? Solito dolorino al braccio, sia il primo che il secondo, ma quei due giorni. Solo che dopo 10 giorni mi ha fottito, capito? E io cosa ne so, boh, io sono sempre ando nei figurini, cazzo, ma c'è quanto ne sono sceso, ma io ho preso 66 kg, cazzo ne bisogna 80, 78, 80, peso 66 kg. Sai che ti bane, vai Natali, bubù, e fate il vaccino comunque, grazie. Contro la varicella. E allora, la rabbia, non ne posso più, si dica che va, vaccina, bisogna mettere il ghiaccio, tutti rimarranno che faccio. No, fate questo, fatelo questo, grazie a, fatelo, capito, fatelo, che serve per evitare che quelli che hai già fatto ti facciano danni. Come il fuoco di Sant'Antonio, fatelo grazie a, io te lo consiglio da bui, io non ce l'avevo e mi ha fatto danno. No, non me ne faccio altri, a Giusarrado, l'ultimo che ne ho fatto era quello dell'influenza, che quello lo faccio ogni anno. Ehi, noi sull'influenza, quello ti annienta gli anticorpi per un certo periodo, infatti c'hai sempre i mali, perché te li annienta, però fatti quello, grazie a, vai dal tuo medico e fatelo fare. Cosa mettere la varicella? E anche io varicella faccio, non ha mai avuto, a meno che da piccolo non me ne ricordo. È appunto Baghissu, è proprio perché non l'hai avuta, capito, che ti devi fare il vaccino, perché questo, i vaccini che hai fatto risvegliano il virus della varicella, hai capito perché te lo devi fare? E io stesso non ne avrò il vaccino per la varicella, per quello ho capito che succedono, ma ne ho sentito parecchie, infatti poi stranamente in televisione ti chiedono, ti consigliano di farti il vaccino, proprio perché ne stanno succedendo parecchie, anche dopo tempo che sono stati fatti i vaccini contro il Covid. Non lo so se io ne ho fatto anche una parte lì su, dove c'era il manicomio. Questo vale dappertutto, ma non ne devi fare altro di questo vaccino. E mi hanno fatto un vaccino che vale per tutti, per sempre, mi ha detto. Io avevo fatto all'ex l'ultimo vaccino per l'impresa. L'avevo fatto lì all'ex dispensario, in via Mendola, quando c'era l'ex dispensario, te lo ricordi? E andavo anche io lì a fare il vaccino, la visita della paziente, prima andavo lì, poi avevo i diretti di tutto quanto all'ex manicomio, ed è tutto relli. Così è, grazie, così è. Anche mia moglie li ha fatti, però non l'ha fatto nulla. Cosa ne so, cioè a parte che c'è l'asma, chi sa, mi l'ha sempre avuta. Che c'era un periodo che c'aveva sempre sonno e stanca, perché stava prendendo una pastiglia, non so, ma cos'è, chissà. Per la depressione, siccome era troppo alta l'infanzia, sono lenta e dormia giù. Adesso gliela abbassate e già va bene. Ma l'hai vista quella pubblicità? Cosa? Quella pubblicità l'hai vista? No, non l'ho visto. E cosa dice? Di farti il vaccino. Come, non l'hai vista quella pubblicità di farti il vaccino contro la varicella, eccetera, eccetera? E già da un bel che lo stanno dando ormai. da quando hanno scoperto appunto che i vaccini anti-Covid provocano il vaccino della varicella, capito? Il virus della varicella liberano. Ecco perché lo stanno pubblicizzando di farti il vaccino. Oh, mia moglie mi ha detto che ha visto la pubblicità per il cancro. A fare il vaccino per il cancro. Ha visto la pubblicità. Per non venirti il cancro, così ha detto. Prima c'era due tipi con l'estintore, te ammenti, facendo quella pubblicità con l'estintore. E poi adesso sono due uomini e una donna che lo stanno facendo quella pubblicità. Ma a me l'ultore mio non mi ha detto nulla, solo il vaccino, l'antifluenza, infatti mi l'ha dato e me l'ha già fatto in casa, io me l'ha già fatto fare a me figliura, a chi non vi voleva andare, capito, perché ero uscito da poco anche dall'ospedale, la volta che mi ha fatto, mi ha dato quel vaccino. E anche a me ha detto, avevamo un matto seduttore, mi grazia, avevamo un matto seduttore, a me non mi ha detto un matto, anzi, ma si lado a farmi i vaccini, capito? Ma si lado, sia Edo che la diabetologa, perché non li voglio manco va, capito? Mi fatto la gioia. Non ti dici no, lo dottor Rinuccio, capito? Tu devi andare a dirglielo, dici, guarda, io vorrei fare, ho sentito la televisione così, così, così. Cosa dice se lo faccio? Se poi dice che l'ha già fatto un altro discorso. No, io ho fatto al dispensario un vaccino che vale per tutto, mi ha detto, non ne devi fare altro. Così mi aveva detto, questo vaccino a parte. Sarà per i problemi che faccio, cosa ne so, Appunto, non sai se in mezzo a quelli c'è anche quello per la varicella, capito? Non è che la varicella venne solo da minori, no? Se viene da minori è un conto, ma poi si può ripresentare anche due o tre volte, non è che può venire solo una volta e non ti viene più, no? Questi vaccini qua che la provocano, capito? Aspetta che vado a sciacquarmi la bocca, mi ho fatto lo spruzzo anche. Riprendi Natalie. Via, ma te li immagini questo maccolino che... O è ancora drummiddu? Sei dormitore. Ah, è fanno colazione. Vero, che la cosa che ci vuole la colazione. Maccolino, fatta la colazione. O forse è andato a prendere delle cosette, che ogni tanto va a pigliare. Così sempre delle cosette va a pigliare, capito? Al supermercato. E dove quattro gare all'attacca della moto. Quell'altro treno, nello... Ah, andiamo a vedere i cassieri, Ma se non sia così a noi non si inizini. Paghi su, a me mi pare sia maniaco. E noi non ti inizi, chissumi. È maniaco, mi come te, Manuele. Manuele, ma te sei maniaco, mi. Sì, sono andato a vedere le vecchiette, va a vedere, con le cazze rotte. Beh, tu di brovoccheggi non entrano i puzzinusi. Chi è? Chi è? Io ero forse Grazia. E chi è che non è entrato? Marcolino Condor, Manuele non è entrato, li ho chiamati e non ci sono. Ne avranno approfittato di che c'è un po' di bella giornata. Vai. Di l'altro, non è prepotente. Ciao, ciao. Malissimo, troppo ripetitivo. Ciao Natalia, ciao Graziano. Buonasera, ben sentito. Vai Natali. Ciao Tony, ciao, buonasera. Kappa, chi c'è altro qua? Grazie, aspetta, mi stanno telefonando. Luca c'è, Luca Flipper, Luca. Beh, grazie, dai, mi sento. Ciao, ci sentiamo dopo. Già, l'ho lasciato acceso, così scalda un po' qua. Ehi. Bene, Nera, Tonino, da dove stai modulando? Da casa suia. Sarà da casa sua, ho detto. Forse pure saranno impegnati, saranno facendo cosa. Chi è avanti questo brecco brecco? Ok, avanti Giuseppe. Ma qua sta arrivando Santiago 9 Radio 5. Ma volevo dire sembrano infatti l'aver sentito un confetto, ho fatto. Ehi, a Graziano era. Grazie a che c'è Giuseppe. Ehi, ciao Giuseppe, ben risentito da molto tempo. Sì, sì, sempre la stessa modulazione c'è, bella voce, bella chiara, perfetta. Ciao Grazia, mamma, fa piacere tanto a me tantissimo dopo tanto tempo risentirti, Grazia. Ciao, mi fa tutto bene. Ehi, sono una decina di giorni che sono uscito di nuovo dall'ospedale. So quei trecci sempre di pidali. Figurati, da 80 kg che pesavano i bei su 66. Cavolo, grazie, non mi spiace però. Ehi, la diabete ti porta un sacco di malanni. Adesso ho anche il cuore a contusoio. Sono sempre con l'ossigeno, prima solo la notte. Adesso tutto il giorno e tutta la notte, 24 ore su 24. Ma mi date cuore, manco di sciapura, ma mi ha pigliato buco questa macchinetta elettrica. Da quando l'ho presa l'ho usata due volte ed è sempre in garage. Già andiamo a vedere, era vecchiaia nostra, già abbiamo messo bene. Ma da quando mi è giunta questo cavolo della diabete a me mi ha regato un po' di malanni. Io lo so perché la buona di mamma era così. Tutti i malanni pare la mamma, vi raggio io. Io adesso vi saluto che devo fare un po' di commissioni. Se coincide più tardi, dai, io non sono rendendo che facciamo una chiacchierata se vi va. Ok, va bene, a più tardi, già è acceso perché ce l'avevo sempre spento, questo lo lascio in funzione adesso. Vai Natali! Cappa Giuseppe, se ti fa piacere non c'è problema, già siamo sempre qui. Almeno fino alle 7:30, 8 ci siamo. E certo che mi piacere Napoli, ci mancherebbe altro, con gli amici sempre ben volentieri. Dai, un salto come circolare, ci sentiamo dopo. Ciao ciao, buona questa greca, buone commissioni, a più tardi. Avanti Graziano. Ehi, buon tutto, a più tardi, ciao Giuseppe. Ebbene Natali, ma in pensione io travagliai. Oh, io vieni in mia, so che 3 anni sarrado. Catta, tutti si ramintendo i pesi del 66, io da 80, lo sai quanto sono corri da più anni, a valla giù do rabbigliato, rubeso, però qua mi è venuta una brutta pancreatite, mi è venuta, beh, lo sai che sono arrivato a pesare 52 kg, uno scheletro ero. Perché lo so che fa così, a parte tutti i 10 militini manco cana di magnate quasi vini, se ne basta, ma a me mi inganeggia brutti, a quando arrivi l'ora di mangiare non ha giù più cana, proprio prova a mangiare e mi viene l'abburiamento, allora non ne mangio nulla. Figurati. A me poi mi è venuto anche il diabete da questo cavolo di pancreatite, mi hanno tolto la cistifelle, ho avuto un'ernia, chi più ne ha più ne metta. Ti sono dicendo da quando è stato il suo gufo di sempre in prigione. Ernie ne ho, 5 ernie del disco, erano in zinca, ma magari saranno di più. Non mi aveva consigliato di operarmi anche intanto, ma di tanto da voi è peggio. E ne avevo 3 allora. Adesso ultimamente, 2 anni fa erano 5, allora mi saranno aumentati di più. Ma che mi faccio un dolore di schiena, abisata di luretto, tutta canta la di. Boh! una sagosavetta, no, la mia era un'ernia inguinale, mi sono fatto operare e me l'ho messo a posto, diciamo così. Lo stesso la colicisti mi sono occupato per a chi la biriguruso, o se mi veniva un altro attacco di chi sa manca la tite, chi so guibu bambiraguru, so gu, grazie. No, già lo so, la pancreatite è di bilagare bene, già lo so che c'era uno in ospedale un paio di anni fa, fianco a me, si era imbucciato da ruetto direttamente a operare la chissi nera, gli andesi, e l'avevano operata la pancreatite, e se l'ha scappata per un pelo anche quando l'hanno operato, è perché a rimettersi ci ha messo anni dopo quello. Figurati. No, io sono vivo per miracolo, me l'ho scampata proprio. Certo. Come ti sono entrato, mi hanno indagato una gheta senza mangiare completamente. Una settimana, mi sono di più. Cazzo. E da poi ho iniziato piano piano, brodini, roba rizzina, un preso. Oi, oi. Guarda, negli ultimi tempi me la sono vista brutta veramente. Adesso ho questa carenza di vitamina D, sono ubbidiente chi si gucci, chi mi ha dato l'endocrinologo, e sempre da una visita all'altra, Zogue, mamma mia, meglio la morte. E io sono lo stesso, ah va, mia figliola deve andare in ospedale che sta lavorando lì, se riesce a pigliarmi l'appuntamento dalla nefrologa, perché mi ha pizzicato il burro ai reni e sono tutte e due, e sono un bel portimari, mi ha detto, capito. E poi mi hanno ricoverato, che mi sono tre infarti, mi sono giunta, ma ero più morto che vivo, e sono curato un mese con il suo macchinario senza mangiare, con un macchinario attaccato al braccio, e mi ha detto che già ero mangiando dai vivi, hai compreso? Sì, infatti, sì, robe brutte sono, grazie a Gesù Cristo mio. Cura Calventra in disavo Camara. E a me mi ha pizzicato le coronarie del cuore. E devo stare tutta la notte con l'ossigeno e tutta la notte con l'ossigeno. E ogni tanto mi devo controllare la pressione, la pressione corporea con quella macchinetta che mi ho dovuto comprare. E la pressione di un respiro mio. E ho capito, ho capito. Cazzo, ma che vuoi che ti dica? Macchinetta va a misurarmi pressione, macchinetta fa la diabete, gli è nato un poco, per carità, qua. Sì, da domani ricoverato, mia moglie mi ha portato le medicine mie, là c'è chi non vi la viene tutti i cipi lui, mi hanno pigliato le prasi, ma lei ne ha più della farmacia, cosa vuoi che ti dica? Quelle che mi hanno detto di prendere, sto prendendo tutte quelle. Insuline, quattro insuline, aradi. Lo so, io pure stavo facendo quattro insuline. Avanti sto cuvendo una solo la notte, ma ne da due la bastiglia, chi dura battuta la di. Ma la mia è bassa, là, non è un diabete grave, mi. E da quando mi è giunta che c'ho cazzo di pancreatite, che sono diabetico. Mi danno una ciappa da ripirare, infatti. No, io c'ho il melito 2, c'ho i granati che me l'avevano riconosciuto quando c'era l'ospedale rosso, mi hanno pigliato il plasma, va via la glicemia, vedi 4 dentro, a bella da vedi, mi hanno messo subito a fare insulina. E pure a me, però non ce l'avevo così alta, a 200 mi pare mi era piena usa. A me mi ci sale così, qua pure senza mangiare nulla, mi è stata così 200, 300, ed comunque me la devo sempre controllare. Infatti adesso ho la macchinetta attaccata al braccio e uso una specie di cellulare, me lo basso i divi e mi segna la glicemia, capito? Per non bucarmi i polpastrilli con l'ago. Uso questa macchinetta e ogni 15 giorni devo cambiare questo coso. 15 giorni in un braccio e 15 giorni lo devo attaccare nell'altro braccio. C'è un ago ed è un coso rotondo. E un sensore là. E un sensore. Adesso questo qui mi finisce fra 10 giorni e devo stare sempre a controllarmi l'isso e misurare la mattina, prima di pranzo, dopo pranzo, prima di cena, dopo cena, poi la notte, ui, per carità. A te a rigore dici, ma con cuore di bulispedi in carriera mi lasci? Perché è come che sei in prigione, a me pure mi fa così. Sì. Ti sto dicendo che mamma mia, non ne posso più. Cazzo, da voi si capite già la dici, vuoi fare fatta apposta, mi viene nei gusti, perché c'ho anche la retrocolitolcerosa, già te la metti, e c'ho gusto la rientrare in bagno. Cazzo, se tutto va bene siamo rovinati. Ehi, già per la vita mia moglie, allora mi manca, un botto di rosetto, andai che mi metto il curioso, e ha già fatto bingo. Oi oi, Luca! Mi sembra che mi sia sentato. Evidentemente è impegnato, sta facendo qualcosa, se non risponde. Ehi, Archimede, e la giubbotta Archimede, è sempre in pelle, sempre in ventenni. E infatti, ma cata, sono crollato addirittura a pranzo, mi sono colicato 2 ore buone, me le ho fatte di sonno, gatta, ma e mi ravvile di tornare a Biocco. No, io non mi colico, a cucca mio mi devo intendere in mare. Se non mi sento male, cioè se mi sento così, già tocco in piedi, preferisco starmene in piedi. Scusate, anche come ti voto 3-4 baci, sono qui a bocca a bici, allora mi ha piccato sul lampadario, ti faccio molto secondi, sto per avvitare il rondellone e mantenere la plafonera che è pesante di prendere. E la bocca a bestia mi ha deluso di fare puzzo. Cazzo, dimmi tu. Oh, yeah. No, no, io non posso fare nessun movimento, né sforzi, niente. Devo stare pulsato, camminare piano, piano, piano, fermarmi per via del cuore. Perché mi si accelera subito, capito? E mi viene l'affanno, non riesco a respirare, anche se c'è l'ossigeno attaccato. Non respiri, ce l'ho, però non rintendo, non respiri, capito? E che dici un buon passo sempre già entra, però tu quando ce la fanno così non riesci, tu non respiri. E io ho capito. Gesù, già siamo bocci vecchi, io pure non posso fare forse né nulla. C'ho una vena otturata nella gamba e non posso camminare, anche come ti cammino poco poco mi vengono i sudori allucinante, ma allucinante mi. E mi devo bloccare. Oh, la gamba pigli, cazzo va giù i nocchi nel bacino, in l'anca, tutti i giorni bassi, c'ho la soporosi. Sì, poco poco cammino, appena più veloce di quello che cammino adesso. Ma di busar o di busarmi in terra, che mi si muggiano i ranchi. Ma già siamo bucci, beh. Sto andando alla bricca, ma sono arrivato quasi alla Iana, mi sono busato nei vecchi, questa specie di monumento, che aveva un gradino rialzato. Mi sono dovuto busare i vivi. Sta poi non per fare a pisamini, l'ho domandato al signore se mi date una mano a pisamini, e chi si mette il cazzo? E pensavo che ero io solo così. Ma che cruente era così? Anzi, dimmi tu. Io se mi posso bene, grazie, bubu. E lì a uno l'ha domandato, ha giusto ammazzarmi, l'ha già allungato la mano e mi l'ha detto. Sì, mandare i roghi, mi ha detto, proprio pagisci. Ma è roba da chiudere. Ed era in treno la briccia come il burletto, ed era come il teme. Luca! Luca, cosa stai friggendo i pesci? Ah, buono che ti senti la graviglia, chissù. Sai prego la graviglia accesa, no, io sono da un mese senza sentita, la graviglia, e già ce l'ho nel terrazzo. Vabbè, all'ospedale, poi quando non si intendeva con il ragazzo, non bravo se manca a mangiare, non te ne vede gana cosa la voce. Ma mia moglie già se le fa le cose, però io quello che mangia lì non lo mangio. Io lo credo. A parte che non posso mangiare un sacco di cose, burbaggio un cavolo di diabete. La femma ci mangiate due caramelle, ma baggio la glicemia, ed erano i ricchi di caramelli senza zucchero, 280. Cazzo, burruchiti, senza zucchero, dice, e come si mangia in salsata? E a che non è senza zucchero? Grazie, di allora se era con lo zucchero già stava a 400, figurati, faccio una cristalliera e non che tirano i caramelli, non mi ha dato la dove portarmi i buoni, te portateli a casa, te, tanti un assaggio uno ogni tanto, così. Non è possibile. Le caramelle senza zucchero fanno la una glicemia, cazzo, ma inteso una vita. Infatti non ha più pigliato né mia moglie né mia figliuola. Se l'ha detto, guarda, mi ha mangiato due caramelle, mi qua, e mi ha mangiato queste, senza zucchero. Cazzo, non ti puoi fidare di nulla, no? Chissà cosa venga se caramelle ha fatto la glicemia così. Magari non mettono lo zucchero e mettono un altro dolcificante, a chi? Buoni sono buoni, però sono dolci lo stesso. E come io prima mi prendevo con la scatolina con le pastigliette, invece la diabetologa che c'è adesso mi ha detto, guarda che quelle sono identiche allo zucchero, non ti cambia niente, lasciali dire, non le comprare più. Se ne metti una puntina di zucchero o normale, e fai prima, e allora? E tutto baffadinato, tutti i balli, non hai compreso? Allora pure questo dolcificante deve chiesi in bustine e fatti così, evidentemente, grazie. E anche quel dolcificante, anche quello che ce l'hanno anche nei bar, anche quello, la matta scigosa, cosa cazzo? C'è perché che cosa, ma farlo un poco dolce, vedi, in mezzo. Manco dolcificante ma piglio, parlo. Cazzo. No, io non ne ho più preso, preferisco ciò il cucchiaino piccolo, mi metto quello, un raso, lo metto e andare. Ma cazzo. Sarebbe meglio prenderlo senza niente, solo che è troppo amaro il caffè così. Cioè, mi piace così, però cazzo, c'ha un altro sapore, con un po' di zucchero già è meglio, là. Non è dolce dolce, ma già va bene, va bene. Poi io la mattina a colazione solo il tè posso bere, latte non busso mangiando, per via della retrocolite, che se no sto tutt'ora in bagno. Cazzo, i pigliati il male il gomodo. No, che è liquido, è tutta roba liquida, non è che fai altro, capito? È liquido. Siccome si chiama la dia, tende a avere come ti si chiamano, nell'intestino, oh, allora mi ha messo questi si chiamano, non le cellule, un altro nome c'ha. Sono più potenti e polverizzano quanto vuoi, compreso, che ci vengono di un mattone di ricciosi. I succhi gastrici devono essere. Succhi gastrici. E infatti mi ha originato me, lo coso lo posso mangiare il suo acerbo, lo yogurt, quei yogurt che rimangono acerbi. E quelli li posso mangiare proprio per metterli un po' a posto. Poi c'ho quelle vitamine che bevi in bottiglette, costano 9 euro e li compro in farmacia. Quelli sono per aiutare la flora batterica, eccetera, eccetera, dell'intestino, capito? Ma cosa vuoi ti dica? Avanti, li basti incontinenti, mia moglie, sono 3 dì alla sura. Se deve fare cosa urgente, la grande che hanno muore la sura. Meglio sto, almeno non mi rompe le scatole nessuno. Ma vabbè, ce la fai piano piano la cosa, in casa chi è in casa? A mia moglie pure so che un po' ci guascio così per dire, i piatti, un po' di voce mi faccio io, vabbè, sono 2-3 piatti, siamo rimasti in 2 e mi migliora una, chi si è fidanzata, però non è sempre che viene a casa, rimane dall'amica sua in paese, o se ne andano in giro, ho capito, se ne vanno fuori a Milano, gioca a pallone e vanno in trasferta, dunque non è sempre che c'è in casa, praticamente sono qui e mia moglie, capito? E infatti io e noi pure siamo in 2. Capito, mi sei barrata la lavatrice, devo dire che qualche amico mi do una mano a far azia a Giosso per comprare la nuova. Quando torna da continenti, Runi andrà con pareggio. Cazzo, ma non si vini più di che cose. Lei va bici, ma ci compara di un materasso, nuovo a chi per chi c'era un terzo, a chi pensavo che era da un materasso il mal di schiena, invece è dall'ernia del disco che c'ho, capito? Se si mangiano, me ne beso coppo, se si mangiano, pare che mi sia abbassato, c'hai un po' di fede, ma c'è di bussare che mi si muggia lì anche, e mi dovrei tutta la china, capito? C'era un terzo materasso, infatti uno l'ha aiutato da un'amica di mia figliola perché era nuovo, gliel'ho regalato. Gli altri due, uno se l'ha preso mia figlia per casa sua, per la cameretta, e un altro l'ha buttato in un letto. E questo non l'ha voluto, gliel'ho conservato perché è nuovo. E gli ho dato quello mio o l'altro nuovo e me ne ho comprato un altro nuovo, quel matrimoniale, perché cameretta c'ho il letto appaggiato del matrimoniale, una camera è là, è una camera a ponte, però io gli ho fatta a camera matrimoniale là. Io ho capito. E purtroppo. E pur me cugine così con l'ernia del disco a Bovaraccio, sempre incannizzato e chissà. Ma se io quando stavo lavorando, che ce ne avevo appena 3 e stavo lavorando lo stesso, mi veniva uno veniva alle butte, che era amico del figlio del mio principale, e veniva lì noi in negozio. Lei che ci da bella operata era sempre bigiato, curvo, è rimasto curvo. Figurati. L'hanno operato pure a me cugino, però le ci dà la frabbacio, guarda, meglio la morte. No, a me me l'ha sconsigliato proprio il medico, mi ha detto è l'ultimo che ti opero, ti faccio operare, perché poi intanto è peggio, stai peggio, tanto vale tenere di la luce. Infatti ci sono giorni che ho la pancera, mi pongo la pancera, battini in me dritto e non me ne affutti.